Radio Popolare presenta La Caccia, Caccia all'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buongiorno, sulla voce che non c'è dovremmo iniziare le nostre riflessioni per proseguirle con estromissioni politiche e culturali, problemi di traduzione, nonché del vivente come fotomontaggio.